Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, una vittoria il Milan, un pareggio l'Inter, una sconfitta la Roma, un esordio in chiaroscuro per le italiane. In tre partite molto diverse tra loro, basti pensare che tutte le emozioni dell'Inter si erano concentrate nel primo tempo, andando prima in vantaggio, poi facendosi rimontare e poi rimontando a sua volta. Il Milan ha giocato un primo tempo tra il brutto e il penoso, oggettivamente. Ed è un primo tempo che è finito tra i fischi di San Siro e ringraziando quel giocatore dell'Auxerre che a porta spalancata e con due compagni liberi davanti alla porta ha invece voluto tirare e male alto, a parte la traversa presa in precedenza. In quel primo tempo la Roma aveva controllato con molta serenità il Bayern e poi nella ripresa è cambiato tutto, perché il Milan ha trovato cadenze un pochino più alte grazie anche all'innesto di Boateng. Sono arrivate le due prodezze combinate tra Ronaldinho e Ibrahimovic, mentre la Roma progressivamente si è sfaldata e l'accenno di assalto iniziale del Bayern poco alla volta è diventato assedio e non è più bastato Julio Sergio con le sue grandi parate. I contraccolpi di questa due giorni, per le milanesi in termini di infortuni, perché Ambrosini e Pato difficilmente recupereranno per Milan-Catania, Antonini è infortunato anche lui ma potrebbe farcela, Pandev ne ha per 20 giorni nella migliore delle ipotesi sull'altro fronte, ma le conseguenze in casa giallorossa sembrano un pochino più pesanti, anche perché questa sconfitta è l'ennesima di una serie. Allora, sentiamo prima il commento di Ranieri su questa sconfitta e poi sentiamo che cosa ha detto dopo Totti. La squadra mi è piaciuta sotto l'aspetto dell'attenzione, della determinazione, anche se li vorrei un attimino ancora più grintosi, perché dovevamo andare qualche volta di più in contrasto. E poi quando appunto prendevamo palla dovevamo essere rapidi a giocarla con più naturalezza, invece evidentemente i 5 gol di Cagliari ci hanno un attimino impaurito troppo, per questo credo che non abbiamo accompagnato le punte o le abbiamo accompagnate troppo poco. Se facciamo gol del pareggio con Borriello magari stiamo dicendo un'altra cosa. Il calcio è fatto da episodi, in questo momento non ce ne va bene, però i ragazzi stanno lavorando bene, continuando a lavorare faremo un ottimo campionato. Leggermente diverso mi pare il punto di vista di Totti, che invece ha dichiarato: siamo ritornati al vecchio catenaccio, non abbiamo giocato a pallone, abbiamo pensato solo a difenderci, giocando a questo modo mi sembra difficile poter vincere le partite. Questo mi sembra un attacco frontale da parte di un giocatore che tra l'altro mi sembra palesemente non ancora in condizione, indubbiamente poi il modulo può averlo più o meno sfavorito, ma insomma la sensazione che ne ricavo perlomeno io è che la sostituzione di Cagliari in seguito all'espulsione di Burdisso, quest'altra di ieri sera e questa serie di sconfitte abbiano più probabilmente qualche tensione dovuta a cessione società e a tutto il resto abbiano creato all'interno della Roma, ma soprattutto tra allenatore e capitano, un rapporto che in questo momento mi pare di poter definire precario. Il fatto stesso che, e questa è un'agenzia appena battuta, la società Roma abbia proclamato il solito e taumaturgico in questi casi silenzio stampa fino almeno alla partita di domenica dopo la partita di domenica all'Olimpico col Bologna, insomma, mi pare confermare questa tesi. È evidente che ci sono invece, c'è tutto un altro stato d'animo sul fronte milanista. Sentiamo il commento di Ibrahimovic, grande protagonista alla fine di questa partita. Un debutto fantastico, il primo tempo non era bellissimo, ma il secondo è andato meglio dopo di gol e poi abbiamo avuto più spazio per giocare il nostro gioco, è arrivato il secondo e poi è la nostra partita. Boateng è andato in spazio, mi ha detto in spogliatoio che mi ha visto, mi è arrivato il pallone e poi devo solo mettere dentro. E poi il secondo, Ronaldinho mi ha dato un pallone fantastico e quando giochi con questi giocatori devi solo stare concentrato e il pallone ti arriva. Normale che qualcuno quando non vince Milan stanno contenti, però oggi è la nostra giornata. E poi è stata la serata oggettivamente di Ibrahimovic. Pensate che al suo esordio in Coppa Campioni con il Milan ha segnato 2 gol alla prima partita, con l'Inter in 3 stagioni ne ha segnati 6, 6 in 3 anni, ripeto, e tutti nella fase sempre inaugurale, come quella di ieri sera, mai nelle partite poi decisive a eliminazione diretta. Dicevo, Ibrahimovic è stato poi protagonista anche nel corso della serata più avanti, con un violento battibecco con Arrigo Sacchi che ascolteremo più tardi. La puntata di oggi prevede ovviamente commenti e curiosità sui due tornei, cioè sulla Champions e sull'Europa League, con i vostri interventi in diretta, in particolare per quel che riguarda le squadre italiane, e con quello di Fabio Tavelli invece sul resto di Champions e con uno sguardo, una finestra sull'Europa League. Cominciamo da qui e quindi bentornato Fabio Tavelli. Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, una prima curiosità, 22 gol la prima sera, 22 la seconda, sembra si siano messi d'accordo, ma non è facilissimo, non... 44 gol. Sì, 44 gol, tra l'altro alcuni di fattura pregevole, perché trovo che adesso al di là poi di quelli segnati dai giocatori italiani, ad esempio ho trovato il gol di Eto'o dell'Inter, uno dei più belli, certo, davvero di questa fase iniziale della stagione, ho trovato clamoroso il gol di Müller ieri all'Allianz Arena per grande la difficoltà anche solo di pensare. Bravissimo, di pensarlo, grande giocatore. E poi, non lo so, anche il gol di Costa del Valencia, ce ne sono stati parecchi. Di ieri sera. Con l'annotazione statistica, nessun pareggio ieri, tutte vittorie o in casa o fuori da parte delle squadre dei gironi, cioè chi o 2 vittorie in casa o 2 vittorie in trasferta. In ciascun girone, sì. Esattamente, esattamente, mentre invece qualche pareggio nella giornata di martedì, segnatamente nel girone dell'Inter. Hai citato i gol più belli di ieri sera, c'è stato qualcosa di bello anche tra i 6 dell'Arsenal, ma insomma tutto dipende sempre anche dal coefficiente. Poi c'è tutto il Barcellona, Gigi. Ecco, dipende sempre dai coefficienti di difficoltà. Io ci metterei qualche ricamo del Barcellona, ma devo dire anche il gol del Panathinaikos che ha aperto le danze a Barcellona, perché un assist di tacco su un rinvio del portiere e successiva fiondata di Govu sull'uscita del portiere non è stato un brutto colpo. Guarda, quello è un gol, credo, fantastico, che non si può insegnare, perché si può insegnare a fare un buon rilancio a un portiere, non si può insegnare il colpo di tacco di Cissé, che tra l'altro fa un colpo di tacco su la parte più rigida, direi, del piede, e riuscendolo quasi a controllare. Io l'ho trovata quasi inspiegabile dal punto di vista della dinamica, oltre che quasi inedito. E per quanto riguarda poi la conclusione di Govu, diciamo che è stata la cosa più normale che si è vista delle tre cose, insomma. Certo. Ho detto questo, Gigi, poi il Barcellona ha fatto delle cose memorabili, perché comunque anche il gol di Pedro sul doppio palo di Messi, il cucchiaino di Messi sul colpo di testa di Dani Alves, la partita complessiva di Dani Alves, che conferma di non essere un difensore ma di essere un'ala destra come ce ne sono poche al mondo, e tutto il resto fatto vedere, e dimostrano come il Barcellona in queste sere sia quasi ingiocabile. Certo. Dimostra anche il fatto che, insomma, se il Barcellona ha spazio e inventiva, non è fermabile, soprattutto quando si avvicina in velocità ai 16 metri, va anche detto che in altre situazioni il Barcellona invece va a scontrarsi contro dei muri e continua a fare lo stesso gioco anche contro difese diverse rispetto al Panathinaikos, e questo forse è l'unico vero limite del Barcellona. Sono i grandi meriti del Barcellona, con qualche limite in un tipo di partite più complesso. Torniamo in onda, non so nulla, non ho letto nulla, non voglio commentare. Così Ranieri, quando gli hanno sottoposto la frase di Totti di ieri sera, Totti aveva detto: siamo tornati al vecchio catenaccio, non abbiamo giocato a pallone, abbiamo pensato solo a difenderci, giocando così mi sembra difficile poter vincere le partite. Capirete bene che dopo questo dialogo a distanza, capirete bene perché la Roma si è affrettata a proclamare il solito, ennesimo e... ripeto, salvifico in questi casi, silenzio stampa. Torniamo in Europa, dove invece si gioca meglio della Roma, indubbiamente anche di Totti, soprattutto in questo periodo, e magari si parla anche lo stretto necessario senza arrivare agli eccessi verbali di qualcuno di casa nostra, o meglio di importazione, ma che si esibisce in questo momento in casa nostra. Proviamo a scomporre con Fabio Tavelli il rendimento, per quel che può valere il giorno, il debutto, ma insomma il rendimento per nazione. Dicevo all'inizio che un pareggio, una vittoria, una sconfitta sono un bilancio medio, direi, per le medio-basso. Medio-basso, sì. Secondo me medio-basso. Medio-basso perché... Perché anche ci metto il fatto che, ad esempio, la Roma ha giocato un secondo tempo molto, molto... Cioè, in questo caso Totti non ha torto. No, no, Totti ha in questo ha perfettamente ragione. Il problema è che c'era in campo anche lui, però, che non, non si è visto e sentito un granché, mi pare. Questo sicuramente, però... Se sommiamo il secondo tempo della Roma e il primo tempo del Milan e insomma comunque un, secondo me un 6 stiracchiato dell'Inter contro il Twente, sì. non, il calcio italiano non esce proprio da trionfatore, no, in questa prima tornata. Se vogliamo allora fare una piccola proiezione per quanto riguarda le italiane, anche se una partita su 6 è un po' prestino, il mio punto di vista è il passo avanti importante l'ha fatto il Milan, non solo perché ha vinto, ma perché calcolando che il Real Madrid potrebbe anche vincere il girone o comunque qualificarsi, in ogni caso si tratta appunto di fare più punti possibili con Ajax e Auxerre. La Roma ha dall'altra, insomma, le altre due squadre sono Cluj e Basilea, e quindi una sconfitta a Monaco, anche se questa farà male per tutte le conseguenze, ci può stare. Non è un granché secondo me il risultato dell'Inter, perché mi pare che il Twente almeno sulla carta potrebbe essere la più debole o comunque la meno forte del girone, e i 2-2, anche se sembra un gioco di parole, lasciano le cose come prima, ma non, insomma, è un risultato non negativo ma neanche positivo, mi pare. No, è un risultato positivo nel senso che comunque non c'è stata la sconfitta e c'è stato un momento nel quale l'Inter era andata sotto. Credo che l'Inter non avrà problemi a passare questo girone. È chiaro che essendo citati due pareggi, l'Inter ha già scartato una partita sulla carta facile o quantomeno non complessa, nel senso che il Twente è comunque la squadra più debole delle quattro. Questo significa intanto che il Twente può cominciare a, non dico a credersi, ma può allungare le... Cioè di solito le squadre che arrivano dalla quarta urna possono campare 2-3 partite. Diciamo sì, che il Twente con questo pareggio si è allungato almeno fino alla terza quarta la possibilità di essere ancora in corsa. E questo è un discreto pericolo, sempre tenendo conto che però per la formula del girone prevede che l'Inter il Twente lo incontri alla sesta partita, cioè alla quinta partita, e quindi diciamo potrebbe già trovarlo eliminato. Insomma, però certo, stiamo naturalmente andando oltre. Certo. Stefano scrive da Pavia: ho riguardato 20 volte la doppia triangolazione del gol di Messi, cercherò di farlo vedere ai bambini nella scuola calcio. Bravo. Meglio di no. Perché non si può insegnare una cosa così. Bravo, sì, bella osservazione. Caro Stefano, vedere, ma non chiedete ai bambini di fare la stessa cosa. Bravo. Lasciate liberi i bambini di pensare, di inventare, di non imitare Leo Messi, perché è troppo difficile. Bravo Fabio. Stefano, lei rischierebbe di creare frustrazione in questi bambini. Invece Daniele a Venezia dice: può chiedere a Tavelli che cosa è successo al Prato del Bernabeu, l'unica cosa brutta è Real di ieri. Ora, io non penso che tu abbia responsabilità diretta da giardiniere, però effettivamente no, la domanda ci sta. No, era orribile, sinceramente credo che ci sia un po' di complicità del fatto che comunque in Spagna il sole picchia forte, ma, sì, ma succede anche ad altre latitudini, magari i prati sono migliori. Onestamente credo che sia una cosa che loro non possono aver sottovalutato, perché comunque stiamo parlando di uno dei prati più importanti del mondo. Sì, e se posso aggiungere una rispostina, sì, io ho come la sensazione di una cosa virale che sia successa al Prato del Bernabeu, perché ho visitato il Bernabeu a metà luglio ed era, visto anche dall'alto, era assolutamente uno spettacolo, era una cosa, non dico in fiore perché ovviamente non ci sono i fiori sui prati di calcio, ma era una meraviglia. Però Gigi, in realtà i prati lì vengono completamente rizzollati, cioè vanno lì proprio con i camion e gli isorotolano sopra, quindi possono anche alzarli, sì, e sostituirli. Evidentemente questa buttata non ha funzionato bene, insomma. Senti, non sono a rianimarla. Sì, sì, certo. Il momento più brutto di questi due giorni certamente quell'immagine che voi di Sky avete fatto benissimo a censurare in tempo reale, del piede di Valencia che si snoda letteralmente perché la caviglia va per conto suo. Sì, è stata la regia internazionale, non voglio prendere, non vuoi prenderti dei meriti. Non prendiamo meriti che non abbiamo, ma certamente avremmo fatto la stessa cosa, perché comunque c'è un codice, non esagero dicendo etico, ma insomma c'è un codice di fair play che cerca di non aizzare troppo la pruderia, tanto comunque chi lo vuol vedere riesce a trovare YouTube, cose del genere per poterlo vedere e soddisfare un po' di bramosia, un po' pulp. E infortunio, sì, orribile, penso di poter scagionare tranquillamente Broadfoot, e lì la fatalità è stata decisiva. Momenti migliori, beh, credo siano difficili da individuare, no? Tu hai citato un gol di Eto'o, per quanto riguarda le italiane, molto belli, anche i due di Ibrahimovic, niente male, ma anche per la loro efficacia, poi abbiamo già parlato delle cose di Messi, forse è difficile ravvisarlo, a meno che non tu non abbia intuizione improvvisa. Arrivavo invece ai risultati a sorpresa, secondo me su 8-16 partite l'unico è Manchester United come sorpresa vera, a parer mio. Sì, anche però dallo sviluppo delle gare, ad esempio, mi dicono che il Marsiglia avrebbe potuto fare meglio ed è stato un po', come dire, sfortunato, sì, alla fine. È un risultato sorprendente perché il Walter Smith, che conosce bene Ferguson perché è stato suo vice sia sulla panchina della Scozia che sulla panchina del Manchester, gli ha messo praticamente 8-9 giocatori dietro la linea della palla. Il Manchester United in questo momento, ma lo dimostra anche il campionato, è una squadra che non ha ancora ingranato una marcia importante. Io credo sinceramente che a livello di Champions League farà fatica per tutta la stagione a ingranarla. Non li vedo come capaci di arrivare fino in fondo in questa stagione. Ci sono ancora giocatori anziani importanti che fanno grandi cose, però questa può essere una soddisfazione momentanea, può essere la partita nella quale Ryan Giggs inventa o Paul Scholes torna ad essere decisivo, ma non puoi pensare di campare tutta la stagione ancora su di loro. Riscrive Stefano da Pavia, dice: giusta annotazione la vostra, però io insegno ai bambini che si possono fare anche cose semplici come il triangolo, e più imparo calcio e più riuscirò a giocare bene. Grazie comunque del simpatico commento, quindi grazie a lei Stefano per averla presa bene. Invece un altro ascoltatore dice: io alleno una squadra di giovanissimo e dico bravo Tavelli, non si possono copiare le magie di Messi, sono vere tutte e due le cose, mi pare. No, ma è giusto farle vedere, è giusto farle vedere perché l'ispirazione è giusto che sia alimentata da qualcosa, cioè Giotto è diventato Giotto anche perché Cimabue qualcosa l'ha ispirato, però poi devi essere Giotto. Se sei invece qualcuno che continua a provarci e continua a perdere il pallone, poi magari l'allenatore ti mette fuori perché non va bene e tu diventi una persona frustrata. Fate quello che riuscite a fare, fatelo con grande libertà e soprattutto non fatevi riempire la testa di troppi concetti, credo. Ti trovo in grande forma oggi, psicofisiche direi. Allora a questo punto ti risparmio l'Europa League, di cui parleremo nella seconda parte del programma, e ti chiedo invece se ho visto giusto che nel calcio estero di fine settimana gli appuntamenti veri sono soltanto due: un 14:30 di domenica per Manchester-Liverpool, ma soprattutto un 19 sempre di domenica con Atletico Madrid-Barcellona, perché l'Atletico in questo momento mi pare che sia capolista. Sì, l'Atletico quest'anno è partito finalmente bene e io credo che possa anche arrivare bene e tenere magari a tre la corsa per la vittoria della Liga. Manchester-Liverpool ha una suggestione forte perché è veramente un derby, nel senso che c'è una rivalità fortissima e le due squadre sentono molto questa partita. Però, ripeto, anche per aver visto il Liverpool, per aver visto e per insomma, conoscere abbastanza bene le dinamiche del Manchester United, credo che nessuna delle due quest'anno avrà una stagione vincente, fermo restando che una partita a Old Trafford tra queste due squadre, ad Old Trafford o Anfield, poco cambia, è una partita che io vedrei sempre, anche in stagioni di bassa levatura come quella che io prevedo sarà per entrambe le squadre. Tu conosci molto bene e dal primo giorno gli ascoltatori Radio 24, ma senti Luca da Riccione che fonte AS, e cioè quotidiano sportivo spagnolo, ci informa che il Prato del Bernabeu è stato vittima di un incidente con fuoriuscita di una sostanza chimica da parte di un addetto all'impianto pochi giorni prima della Liga, perché fino a 5 giorni prima della Liga era perfetto. Grazie a Luca da Riccione, grazie a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, a presto. Ci sentiamo la settimana prossima. Velocemente, un primo ascoltatore, poi ne seguiranno parecchi nella seconda parte del programma. Sergio ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Volevo chiedere una cosa: vale la pena per il Milan aver preso Allegri, che aveva un'idea di gioco tutta diversa, che non può fare con i giocatori che c'è al Milan, e mi sembra molto impacciato nel risolvere le problematiche facendosi prendere dei contropiedi, specialmente come senza avere incontristi, avere gente che corre che non ha ritmo e che non copre soprattutto. E guardando l'altro giorno su un giornale del 2002, il centrocampo del Milan era Gattuso, Pirlo, Ambrosini e Seedorf. Siamo quasi nel 2011. Mi sembra che questa è una buona osservazione anche statistica, Sergio, indubbiamente. Io credo invece che Allegri sia un allenatore duttile, almeno questa impressione mi dà. Poi tra l'altro più uno è giovane, più uno viene dalla gavetta e più è disposto a, come dire, da un lato sperimentare e dall'altra ogni tanto, non dico assecondare, ma insomma cercare di perlomeno di non mettersi troppo presto in rotta di collisione con i suggerimenti più illuminati. E quindi io credo invece che un po' alla volta stia cercando di trovare una quadratura. Poi, come sempre, sono i giocatori che le quadrature le trovano e sono le loro caratteristiche, le loro risorse, quelle che fanno il rendimento in una squadra, più che non le trovate di un allenatore. Beh, torniamo con il programma di Europa League, visto che questa è la giornata del debutto di quest'altra manifestazione. Allora, Juventus Lech Poznan e Sparta Praga Palermo alle 19. PSV Eindhoven, Sampdoria e Napoli-Utrecht alle 21.05. Le prime tre partite, cioè quella di Juventus, Palermo e Sampdoria, su Mediaset Premium, quella del Napoli tutte in diretta, ovviamente, quella del Napoli altrettanto in diretta alle 21.05 su Rete 4. Salve Granzini, scrive Alberto da Padova: tra le cose brutte dei due giorni di Champions, io metterei la supponenza e la maleducazione di Ibrahimovic nei confronti di Arrigo Sacchi nel dopo partita. Alberto, io la ascolto, lei non so se sia un ascoltatore affezionato o meno. Se lo è, dovrebbe ricordare che spengo il televisore al fischio arbitrale, quindi l'ascolto volentieri, ne ho letto ampi echi sui giornali e sulle agenzie, l'ascolto volentieri con lei per la prima volta per quello che mi riguarda. Che tanti parlano di Champions, Arrigo Sacchi ne ha vinte due e con una battuta ha detto che se non avevi il 46 o il 47 di piede, non lo so, forse non ci arrivavi su quella zampata del primo gol. Possibile, non lo so, però anche Sacchi sembra geloso perché sta parlando troppo, deve parlare meno in televisione e anche in giornale. Se lui vuole qualcosa mi devi venire a me a parlare. Però ha anche parlato prima, quando ero in Barcellona, non solo adesso. Credo di poter esprimere con correttezza ed educazione quello che penso, senza offendere le persone, non credo di averti mai offeso. Però se vuoi qualcosa vieni da me, non solo in televisione. Ma io non voglio nulla, mi chiedono le cose perché parli troppo. E dico quello che penso, ripeto, va senza bene. Mai offendere. Non mi dà niente, non mi dà motivazione, è solo che quando uno parla troppo e tu sei uno di loro. Chi fa il critico ha il diritto e anzi il dovere di fare un'analisi, magari non è secondo te corretta, però... Da qui sì, anche perché, a questo insomma, tipo sì, di atteggiamento ce ne piove. Però devi anche essere realistico, perché a tempo in Barcellona era solo cose critiche. Però va bene, questo sta per te, tu puoi pensare come vuoi. Io faccio il mio gioco, se non ti piace non mi guardi. Io esprimo quello che penso. Va bene, non ma devi con spiegare, rispetto. Non mi devi spiegare niente. Beh, però devo dirti che dovrai imparare anche l'educazione. Sì, sì, va bene. Beh, fantastico. A parte i coteri intellettuali le cui voci si udivano sullo sfondo, ma se vuoi qualcosa vieni da me, veramente siamo alla bullaggine di sest'ordine, non di quart'ordine. Fantastico. Abbiamo provato a ricostruire con l'aiuto di Franco Piantanida quali sono, quale può essere l'origine, no, di un atteggiamento del genere di Ibrahimovic nei confronti di Sacchi. Abbiamo trovato un articolo sulla Gazzetta dello Sport, nella rubrica che tiene Arrigo, del 26 luglio 2009, quindi di parecchio tempo fa, all'epoca credo dalla cessione, sì, anzi, eccolo qua, dall'epoca della cessione a Barcellona. Scrisse Sacchi: è vero che i nerazzurri hanno perso con Ibra il giocatore più decisivo delle loro recenti vittorie, un calciatore che individualmente ha pochi eguali, ma che si è fidato delle sue straordinarie attitudini senza sentire la necessità di migliorarle con movimenti congiunti alla squadra. In Italia il suo talento singolo ha fatto la differenza, in Europa non era sufficiente. Forte con i deboli e debole con i forti. Questa probabilmente è una frase scritta che Ibrahimovic si era legato al dito. Oddio, adesso che Ibrahimovic legga o che legga il suo manager Raiola attiene sempre al campo del paranormale, però può darsi che qualcuno gliel'avesse segnalata. Il 9 settembre, quindi pochi giorni fa, sempre sulla Gazzetta, 9 settembre di quest'anno, Sa chi ha scritto: Ibra, specialmente nel campionato italiano, basato più sull'individualità che sul gioco collettivo, ha fatto sfracelli. È un grandissimo solista che suona la sua musica ad altissimi livelli, ma fatica a connettersi con la squadra e a beneficiare delle sinergie. Questa mi sembra, oltre che un'analisi tecnico-tattica eccellente, mi sembra già assai meno offensiva. Ce n'è un'altra di cui non ho trovato il ritaglio, ma che così ricordo più o meno, e che risale a un pochino di, insomma, a non molto tempo fa, forse ai tempi in cui si è cominciato a parlare della cessione di Ibra dal Barça al Milan, e a qualche paragone che qualcuno aveva azzardato con Van Basten. E Sacchi in quell'occasione scrisse, e probabilmente disse anche ad alta voce, che insomma, visto che le bestemmie sono punite in campo, grosso modo, la traduco io così, bisognerebbe cominciare a vietarle e a sanzionarle anche fuori dal campo. Enrico, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io chiamavo proprio per l'intervista a Ibrahimovic e sera di Sacchi. Mi dispiace, io sono un amatore del calcio e amo anche i campioni e quando giocano bene, però questo te lo poteva risparmiare, soprattutto pensando cosa ha fatto Sacchi, cosa ha vinto e cosa ha dato al calcio italiano. Io credo che non... sì, questo a maggior ragione, dice lei, sì, a maggior ragione la condivido, ma anche senza la maggior ragione, uno che in uno studio televisivo dice se vuoi qualcosa vieni da me, mi auguro che i dirigenti del Milan gli facciano vedere o gli ricordano perlomeno quello che è stato Sacchi per il calcio italiano. Sì. Da juventino... mi dispiace vedere queste cose. Sì, io devo dirle che dopo aver visto un'altra scenata ieri sera, meno celebrata, meno cosa, un'altra scenata di Galliani televisiva in un altro studio prima della partita, a proposito di una domanda che poteva essere intempestiva in quel momento, ma che aveva una sua legittimità, e cioè se per caso si fosse scusato col designatore Braschi per la piazzata di domenica, avendo visto la risposta di Galliani, dubito che dall'ambiente milanista di questo momento particolare, non dall'ambiente milanista in assoluto, che invece ha sempre coltivato la buona educazione, in questo particolare momento ho l'impressione che ci sia qualche tensione, qualche sovraccarico di adrenalina che non credo suggerirà di mettere in riga Ibrahimovic come meriterebbe un villano rifatto di tal genere, insomma. Claudio, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo due domande. Ho un parere su, che non ho ancora sentito da lei, probabilmente non ero collegato in qualche giornata, su Benitez, il nuovo tecnico dell'Inter, e se poteva essere secondo lei una soluzione per migliorare il gioco dell'Inter, far giocare Maicon un po' più davanti con un terzino più di copertura dietro, visto le sbavature in difesa ultimamente. Grazie e complimenti. Grazie a lei Claudio. No, credo che si farebbe il male della squadra, ma anche di Maicon, credo. Le sue incursioni, cioè lui è forse, quando è in forma, è il miglior esterno, perché terzino adesso sa, non vorrei che diventasse un'offesa. Magari dai del terzino e poi ti trattano come Ibra ieri sera a Sacchi, no? Non vorrei che la prendessero male per il vetero linguaggio. Un esterno come Maicon, che oggi probabilmente, ripeto, in forma è il migliore del mondo, sfrutta proprio il fattore sorpresa e il fattore velocità lanciata, non so come dire, no? Ed è un dibattito che 30 anni fa o 40 anni fa si faceva a proposito dei Facchetti, che aveva grosso modo queste stesse caratteristiche, con in più un senso del gol un po' più spiccato. E Brera a un certo punto addirittura lo cominciò a battezzare il mio centravanti privato, ricordo, perché gli sarebbe piaciuto e aveva caldeggiato lungo sui giornali di allora un utilizzo di Facchetti da attaccante puro. Sarebbe stato a parer mio un errore clamoroso, e comunque nessun allenatore ci pensò mai, come credo che non nessuno penserà mai a questo, proprio perché vorrebbe dire togliergli molto, insomma, e comunque farlo giocare fuori ruolo. No, io penso che l'Inter invece abbia altri fronti su cui agire, e soprattutto la cosa fondamentale mi pare il recupero psicologico di Milito, insomma, perché perché già stava in crisi prima e certamente l'autogol della trasera bene non può avergli fatto. Qua mi sembra che si veda la differenza tra la fatica e l'usura, se è a buon fine o non a buon fine. Cioè Sneijder non ha vinto il mondiale, faccio per dire, però ha giocato un intero mondiale aggiungendo fatica a fatica, no? Ma avendone avuto un esito positivo che l'ha portato più vicino al pallone d'oro, al possibile pallone d'oro, Sneijder oggi non solo non ne risente, ma sembra carico esattamente quando ha smesso di giocare l'anno scorso facendo vacanze brevi. Milito è contrario, perché il tempo che Sneijder ha passato a inseguire con l'Olanda un titolo mondiale, lui l'ha passato seduto in panchina e vedendo giocare gente che in attacco che era meno in forma di lui. E secondo me sta pagando questo, perché insomma, l'usura mentale è molto più forte dell'usura fisica, almeno penso. Nicola, messaggio di Nicola, vuole scommettere che tra un po' Ibra diventerà amico di Corona, ma io penso faccia già parte dei suoi affetti più cari, se non altro per affinità elettive, ma insomma Ibra qualche tempo a Milano c'è già stato, non è che è nuovo della città o dei paraggi. Adesso in molti capiranno Guardiola, scrive Roberto da Belluno, sì, ma non era difficile capirlo nemmeno prima da questo punto di vista. Poi il calciatore è un'altra storia. È il momento di ripassarla la storia, per l'appunto. Cosa è accaduto in un 16 settembre? Ce lo racconta Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 settembre 1970. Nel nuovo stadio Sant'Elia, che registra il tutto esaurito, il Cagliari festeggia il debutto assoluto in Coppa dei Campioni, infliggendo ai francesi del Saint-Étienne un perentorio 3-0 con gol di Nenè e una doppietta per il solito Gigi Riva. Il vantaggio netto accumulato in casa rappresenta per gli uomini di Scopigno un'ipoteca sul passaggio del turno. Al ritorno, infatti, i francesi riusciranno a vincere solo 1-0. L'avventura del Cagliari nella massima competizione per club però si concluderà al secondo turno per mano dell'Atletico Madrid, che uscirà sconfitto al Sant'Elia per 2-1 ma rimonterà al ritorno imponendosi per 3-0 con tripletta del futuro CT spagnolo Luis Aragonés. Interessante. Allora, vigilia di Europa League. Chiedo un attimo di pazienza agli ascoltatori già collegati. Sentiamo almeno qualche frammento da parte di allenatori, quelli che magari si sentono un tantino meno. La vigilia sampdoriana di Di Carlo, per esempio. PSV Eindhoven intanto è una squadra tecnica che di grande movimento, dove danno pochi punti di riferimento in tutte le zone del campo e con la qualità dei singoli sicuramente è una squadra che assomiglia a una squadra della Champions League. Se vuoi qualcosa vieni da me, cioè, è memorabile a parer mio. Romeo, provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, innanzitutto volevo fare complimenti per il modo meraviglioso con il quale ha fatto capire a tutti il livello culturale di Libra e di Raiola, e questo è una cosa, una descrizione meravigliosa. Romeo, non è merito mio, è bastato mandarlo in onda, abbia pazienza. Parlo di quello che poi ha detto, quindi ha fatto proprio ha letto la cosa in modo ineccepibile, e questo era per i complimenti. Poi volevo fare una domanda, sì, senza nessuna presunzione di giudizio da parte mia, è proprio una semplice domanda da tifoso juventino. Ma secondo lei, quel Neri ha capito qualcosa dei giocatori che hanno acquistato, di quelli che ha e di quello che vuol fare? Ma non è una polemica, è solo una domanda ad un esperto, sentire l'opinione di un altro. Perché io quando vedo giocare, rimango come adesso, senza parole. Non lo so, non lo saprei, penso di sì, cioè fa quello di mestiere. È ragionevole pensare che buona parte di questi acquisti siano stati concordati con Marotta, visto che sono arrivati dalla Sampdoria in coppia, anche se poi probabilmente la proprietà su qualcosina ha un po' fatto sentire anche la sua voce, e quindi penso che abbia bisogno di quel minimo di tempo che occorre quando una squadra la si rifà, ma comunque la si ristruttura molto pesantemente, e soprattutto quando si cerca di farla giocare in un'altra maniera rispetto allo scorso anno. Sentiamolo del Neri alla vigilia di questo Juve-Lech Poznan. Perché noi non abbiamo limiti su quello che possiamo fare, e questo non è stato tradotto bene evidentemente, quindi io quando parlo mi ricordo bene di quello che dico. Evidentemente qualcuno prende le cose che gli interessano, però non ha detto, dopo questa frase, che io ho detto che la Juve non si pone limiti. Non dimentichiamo che il Lecce è una squadra che è stata estromessa dai preliminari Champions in questo momento, squadra di tutto rispetto, con buoni giocatori. Per una partita difficile, ma siccome la Juve non è formata solo da 11 giocatori, ma da un gruppo di giocatori, è chiaro in questo periodo qua ci sarà qualcuno che giocherà ancora, qualcuno giocherà meno, insomma. Insomma, la battuta del Neri sulla impossibilità per la Juventus di puntare allo scudetto, qualche traccia ambientale l'aveva lasciata, e quindi mi pare che, senza far marcia indietro, ma insomma ci sia stata una taratura, ecco, da parte di Del Neri su questa sua affermazione. Salvatore, in linea da Napoli, buongiorno. Buongiorno, posso dire da una curiosità, o non da Milano, cioè fanno. Deve parlare un pochino più forte, per cortesia. Posso chiederle una curiosità a Milano? Non riesco a capire che cosa sta dicendo, mi scusi. Le partite di Europa League, sì, iniziano alle 21.05, sì. Può spiegare il perché di questi 5 minuti? Non so, se vuole mi collego. La domanda è eccellente, devo dire, mi spiace averla sentita proprio, non capire, sentita subito. Non è male, in effetti. Cosa vuol dire le 21.05? Ha ragione, credo che ce lo siamo chiesto tutti vedendo questo orario. Bisogna sentire l'UEFA, evidentemente. La prima serata televisiva necessita di 5 minuti in più di pubblicità, va a sapere. Proveremo adesso a indagare, no, perché magari sciupare risorse anche solo troppo tempo sulla cosa del genere, magari no, però in effetti la curiosità c'è tutta, lei ha ragione. Sentiamone ancora una di Vigilia, a parte che sarebbero due, e quindi per completare andiamo su Delio Rossi alla vigilia del debutto palermitano. Sicuramente sarà anche più brillante di noi, è una squadra rodata, penso che è una squadra che abbia anche tradizione, quindi abituata a giocare anche le competizioni europee. Noi sotto questo punto di vista ci dobbiamo fare le ossa. Detto Cassim è napoletano perché rende più il termine, cioè è onomatopeico. Ecco, però in italiano si deve un po' più di spirito di squadra, magari certe attenzioni in più, magari un atteggiamento un po' più proletario. Alcuni meravigliosi messaggi. Gabriele scriva: quando era all'Inter Ibra era un campione simpatico, ora è un brocco presuntuoso, complimenti, il potere di Moratti arriva anche da voi, scrive Gabriele. Ora non dimentichiamo però l'arroganza di Sacchi, vedi mondiali USA, non a caso si è ritirato per stress, scrive Gianluigi da Bologna. Per rifarvi la bocca ve ne leggo un terzo firmato Filippo. Ibra ripercorre i fasti di un altro recente e illustre filosofo, Bobo Vieri. Marco da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, io molto in sintesi per non farle perdere tempo, ecco. Sì. Riguardo a questa questione di Ibrahimovic, sicuramente la sua è stata una spacconata sgradevole. Sì, Marco, mi scusi, no, la fermo solo un attimo. Credo che non è una questione quella di Ibrahimovic, ed è tanto poco una questione che io, per esempio, ne ignoravo l'esistenza fino a... Cioè, se noi prendessimo davvero l'abitudine di accendere il televisore all'inizio, al fischio d'inizio o comunque dell'imminenza, e di spegnerlo quando l'arbitro ha finito il recupero, io penso che il sistema calcio ne guadagnerebbe, ma non di poco, è il sistema complessivo. Chiusa la parentesi, dica. Ecco, no, volevo solo dire, sono d'accordo con lei sul punto, però per fare solo una valutazione di tipo tecnico, ecco, a me sembra che le considerazioni che lei prima ha citato, che sono state fatte nel corso del tempo su Sacchi, mi paiono tecnicamente, non dico gratuite, ma insomma eccessive nei confronti di Ibrahimovic, perché se fosse vero che lui è sempre avulto dal tessuto del gioco ed è assolutamente una bestemmia paragonarlo a Van Basten, il suo rendimento nell'Inter, ma anche nella Juve, ma anche nelle squadre precedenti, non ha una spiegazione. Quindi mi sembra una posizione un po' precostituita e fatta di slogan più che di cose. No, io trovo invece che questa analisi di Sacchi, che poi è condivisibile o meno come tutte le analisi tecniche, abbia un fondamento. Ibra non è un grande valore aggiunto, è un enorme valore aggiunto, però non è il tipo di giocatore che la squadra la accende. Si accende da sé e basta e avanza quando è in serata come ieri. È un discorso molto lungo, un discorso tecnico. Un giorno magari chiediamo allo stesso Sacchi di aiutarci a capirlo, ma sul caso di Ibra lo condivido, ma non da oggi, lo condivido ai tempi della Juventus, non dai tempi di, proprio per evitare che qualcuno mandi dei messaggi come quelli di prima. Leggero sforamento nostro oggi, anche se stiamo parlando di pochi secondi, e quindi grazie a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio a tutti. Tempo di sport.